la versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, grazie dell'ascolto, siamo in diretta alle 16.31, primi e 16 secondi qui da Milano e grazie all'ascolto diretto in podcast come sapete e l'indirizzo è la versione di Oscar @radio24.it. Io per dirvi, se me compare i conti da Belva, vi rinvio a sabato che cosa pensiamo di questa proposta avanzata da Intesa sulle due banche venete, aspettiamo di capirne meglio i dettagli. Io attualmente insieme a loro, se ci seguite su Twitter, troverete che noi siamo molto critici da quello che si è finora capito, ma mancano ancora alcuni dettagli importanti. Quello che si è capito, malgrado tutti stiano brindando come se Intesa stesse facendo ciò che Santander ha fatto per il Banco Popolare, non è affatto così, visto che Intesa si riserva, la prima banca italiana, di scegliere fior da fiore una parte degli 11.000 dipendenti, una parte dei crediti in bonus delle due banche venete, evitando anche quelle che si sovrappongono ai suoi, dice no non solo ai crediti deteriorati ovviamente ma anche ai past due, agli unlikely to pay, dice no a qualunque contenzioso legale, cioè avanzato dal 30% di ex soci delle due venete che non hanno accettato l'abbattimento e la conversione proposta dalle due banche del valore dei loro titoli. Dice anche che il capitale necessario per assorbire questi attivi che si riserva di scegliere lei, bontà sua, e che ovviamente assorbono il capitale, se voi prendete dei crediti in bonus però dovete anche fronteggiarli con del capitale di garanzia, non deve modificare i suoi attuali ratios patrimoniali, quindi ci deve pensare allo Stato dandogli dei crediti fiscali. E a tutto questo, quindi una bella bonanza per la prima banca italiana, che capisco, fa il suo mestiere, nella Bad Bank vanno invece negli attivi tutti i crediti deteriorati, anche quelli che non lo sono ancora oggi, uno, due, tutto l'eventuale contenzioso, ci vanno anche, ovviamente si azzerano tutte le azioni, non si azzerano, continua a dirci il MEF, per dare passivo, cioè capitale per reggere tutti quegli attivi che sono deteriorati, non ci vanno perché non vengono convertiti i bond senior. E quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che a quel punto bisogna immaginare che questa, che si fa con una procedura di liquidazione coatta amministrativa, quella fuori dalla BRRD, precedente al bail-in, perché ovviamente Banca d'Italia e MEF sono contrari al bail-in perché questo comporterebbe la conversione anche pro quota non solo delle subordinate ma anche delle senior pro rata, e questo significa che lo Stato dovrebbe arrivare a mettere soldi del contribuente per reggere nel passivo quegli attivi deteriorati fino a 10-12 miliardi di euro più un paio di miliardi di crediti fiscali per la parte good, per dare capitale aggiuntivo a Banca Intesa, tutto questo per non applicare la direttiva europea e per non convertire per pro quota anche i senior, che costerebbe meno. Questo è lo stato attuale della nostra cosa, cioè un enorme regalo a una banca che fa il suo mestiere, si è stufata come ha fatto di perdere i soldi in Atlante dopo che per due anni i regolatori hanno detto che serviva l'approccio cooperativo e che quindi non vuole rimetterci, e questo lo capisco. Quello che non capiamo però è questa procedura bislacca di ritorno alla liquidazione coatta amministrativa con un enorme esborso per il contribuente. Siccome mancano i particolari e siamo ben lungi dall'avere l'ok dalla Commissione Europea eccetera eccetera, arriviamo fino a sabato e diamo un giudizio preciso. Intanto noi vi invitiamo però a diffidare di chi brinda, perché brindare in quanto c'è sotto un grande sostegno a una banca che di suo sta benissimo e comunque per mandare a casa un bel po' di dipendenti e comunque per addossare al contribuente l'abbattimento di tutti i crediti restanti della banca e di tutto il contenzioso tributario, aspettiamo, direi, prima di brindare. Ma parliamo oggi di un'altra cosa, ve lo dico subito, perdonate, questo era per un inciso prima che poi arrivi Sebastiano Parisoni, che magari ha un'opinione diversa a Focus Economia dopo questa trasmissione. Oggi parliamo di una vicenda che trae spunto, ohimè, dall'assassinio avvenuto ieri di fronte all'ospedale di Teramo ieri di un medico oncologa di 53 anni, Esther Pasqualoni. A ucciderlo è stato un molestatore che poi si è suicidato, e al centro di questa trasmissione c'è una riflessione sugli strumenti giuridici a favore delle vittime di chi viene molestato, di quelli che si chiamano in inglese gli stalker, ma in italiano sono i molestatori, i persecutori. Allora la domanda diventa, e noi abbiamo due ospiti per valutare i due aspetti della questione, gli strumenti a disposizione oggi nel nostro ordinamento, che si sono evoluti nel tempo, si sono perfezionati per difendere chi è vittima di moleste seriali, e come avvengono spesso per esempio nell'ambito dei procedimenti di separazione, divorzio eccetera eccetera, in cui uno dei due coniugi inizia a perseguitare, a minacciare fisicamente, fino ad arrivare magari a compiere poi omicidi nei confronti dell'altro coniuge, sono adeguati? Qual è la soglia in cui scattano? Per questo abbiamo due ospiti. Il primo ospite mi ha molto colpito perché pochi giorni fa sul sito del Corriere della Sera ha descritto esattamente la sua esperienza, cioè quante volte ha dovuto denunciare quanti molestatori prima che il magistrato emettesse misure interdittive. Le misure interdittive possono essere l'ammonimento, l'allontanamento, però quella documentazione di quel racconto mi ha molto colpito. Purtroppo sono passate solo 48 ore e la dottoressa Pascoloni ha pagato con la vita. Dall'altra parte poi sentiamo un operatore del diritto invece, e quindi avremo con noi anche il presidente della sezione delle misure di prevenzione del Tribunale di Milano. Stamattina è intervenuto anche il capo della polizia su questo argomento, cioè l'argomento è: consideriamo o meno efficaci le misure di prevenzione che abbiamo introdotto nell'ordinamento a tutela di chi è vittima di persecutori? Il capo della polizia Franco Garbinelli stamattina ha detto: per noi questa vicenda, cioè l'assassinio della dottoressa e poi anche il suicidio dell'omicida, è sicuramente una grande sconfitta. È ovvio che le vittime sono i soggetti primari della nostra attività, soprattutto nei reati di genere. Poi è andato al punto di cui ci occupiamo oggi. Il capo della polizia ha aggiunto: oggi ci sono degli strumenti, l'ammonimento, appunto, l'allontanamento, che prima non c'erano. Però bisogna anche sapere, ha aggiunto, che in alcune situazioni, come esattamente quella della uccisa dottoressa Pasqualoni a Teramo, non sono sufficienti. Naturalmente, ha aggiunto Gabrielli, noi non siamo in grado di poter prevedere quanti dei molestatori seriali possono evolvere il loro atteggiamento e la loro persecuzione fino a una minaccia diretta e magari posta anche in esecuzione dopo qualche tentativo alla vita della vittima. Quindi la polizia fa il possibile, ma naturalmente il possibile è cosa diversa dal poterle evitare. Poi infine il capo della polizia si è appellato a misure di prevenzione che, prima ancora di quelle dell'ordinamento, sono di natura culturale, e ha pronunciato questa frase che vi leggo: fino a che ancora molti maschi considereranno le donne come oggetto, come proprietà, questo inevitabilmente darà luogo a queste situazioni. Quindi, d'accordo, la repressione da parte nostra e la prevenzione da parte dell'ordinamento è importante, però il contesto sociale e culturale è anche l'elemento di fondo prioritario da prendere in considerazione. Benissimo. Allora, cominciamo con l'esperienza diretta di una persona che è una persona particolare, perché oltretutto non è una persona comune, è un parlamentare europeo, è un parlamentare europeo di Forza Italia che è stato vittima di più persecutori. E ho chiesto anche a lei, come ha fatto al Corriere della Sera due giorni fa, di raccontarvi, vista la tragedia avvenuta ieri, qual è stata la sua esperienza, come ha toccato con mano quanto problematico sia vedere poi l'attivazione a fronte di denunce. L'invito a tutti ovviamente è di denunciare all'autorità giudiziaria, ma la domanda diventa: quante ne servono prima che il magistrato valuti di emettere un provvedimento? Ecco, è con noi Lara Comi, deputato europeo di Forza Italia, che ringrazio per la testimonianza che ha reso due giorni fa e che torna a rendere oggi, all'indomani dell'assassinio della dottoressa Pasqualoni. Grazie. Buon pomeriggio. Grazie a te, Oscar, per avermi invitato, perché io ho commesso il grande errore di non averne mai parlato, e quindi anche di tenere, come fanno tante altre donne, questi problemi per sé. Invece oggi mi accorgo sempre di più che parlarne e aver condiviso anche con altre persone che poi mi hanno contattato è la soluzione migliore, è un primo step. Infatti la notizia è uscita perché un giornale ha dato delle indiscrezioni, altrimenti non l'avrei mai detto. La tua domanda è giustissima, ma fino a che punto? Ed è la stessa domanda che io ho fatto al sostituto procuratore, cioè gli ho detto: ma io fino a quante denunce devo fare? Fino a quanto tempo devo ancora sopportare tutto finché voi prendiate dei provvedimenti? Devo attendere che arrivi col coltello? Devo attendere che arrivi con l'acido? Che cosa devo fare? Perché quante denunce tu, a fronte di queste attenzioni pressantissime di persone che ti si presentavano? 8-9 di seguito. partendo da gennaio, allora ci sono varie vicende diverse. La prima vicenda, anche lì il mio grande errore è quello di aver denunciato dopo un anno e mezzo. Questa persona l'ho avuta in piena campagna elettorale e lì non avevo la scorta. Ecco, premesso che io la tutela che ho adesso non è per lo stalker, è una tutela che ho per minacce di morte, per problemi di sicurezza anche della mia attività lavorativa, quindi è altra questione. Naturalmente quando io vado a Bruxelles e quando vado a Strasburgo non ho scorta, sono assolutamente cittadina qualunque, certo. Cittadina qualunque, quindi anche in quel caso anche lo stalker è cittadino qualunque fuori dallo Stato italiano. Quindi una delle prime battaglie sarà quella che la legge Carfagna, che secondo me è giusta nella sostanza e nei fatti, ma manca quella che è l'applicazione poi della magistratura, valga anche a livello europeo. Mi spiego meglio, con le forze di polizia la mia intenzione a livello europeo è quello di inserire nei database delle forze dell'ordine anche dei precedenti o degli ammonimenti o dei provvedimenti che queste persone hanno per stalker, perché questo adesso non avviene, avviene se sei un probabile terrorista, avviene se hai creato problemi alla sicurezza pubblica, ma mai sul tema del femminicidio. Quindi questa è una battaglia che porterò avanti nelle prossime settimane, abbinata anche a un blog, perché ho capito che quando se ne parla la situazione, non dico che migliora, però si possono capire quali sono i problemi. Che cos'è secondo me il problema vero che oggi abbiamo? Che le forze dell'ordine, e devo dire che lo stesso Gabrielli ha dimostrato veramente sempre una grande vicinanza a questo tema e una grande preparazione a questo tema. Anche le stesse ragazze che operano nella polizia, gli stessi funzionari sono sempre stati molto attenti. Il problema è la magistratura, il problema è l'applicazione, cioè giustamente detto fino a quando, ma me lo chiedo anch'io. Ma cioè, la domanda quando? Adesso per chi ovviamente ascolta e non c'è mai passato, però potrebbe passarci magari un domani, per questo insomma secondo me è molto importante raccontare. Dopo che ti eri decisa a presentare una denuncia, poi la successiva e così via, che cosa capitava? Cioè tu di che cosa avevi lo strumento per essere informato da parte dell'amministrazione? Era compiuto una specie di esame del rischio, delle soglie di rischio a cui eri esposta, in base al quale non si assumevano provvedimenti? No. Oppure funziona che uno presenta la denuncia e semplicemente vede che passa il tempo e non vede nulla che avviene e non è in grado di sapere perché? Allora, così. Intanto bisogna vedere l'argomento proprio della minaccia, cioè che testo usa, come utilizza. Devo dire che questa persona si è presentata sotto casa mia 3 volte, le denunce erano 8 e devo dire che questo provvedimento è arrivato in concomitanza con poi la condanna dei PM per quel caso, ahimè, molto, molto brutto, dove dopo 12 denunce l'uomo ha ammazzato sua moglie. Quindi non c'era stato nessun provvedimento. Io quello che chiedo è che la magistratura sia molto più sensibile, cioè di non sottovalutare la denuncia fatta da una donna, perché la donna di per sé per fare una denuncia di questo vuol dire che è già arrivata all'estremo. Cioè io quando ho deciso di denunciare è perché ero già all'apice di averne ricevute talmente tante che adesso dici no, adesso basta, adesso è troppo. Ripeto, mi colpisce perché poi per la vita che conduci, per il mandato elettivo che hai, sei comunque una persona che nella valutazione delle soglie di rischio è dotata, per così dire, di strumenti e tutele aggiuntive rispetto a una donna qualunque, a una signora comune, certo, per così dire. Quindi, e anche nel tuo caso hai fatto passare un mucchio di tempo prima di arrivare al punto di dire vabbè, qui sì, non so più come fare. Comunque sempre il dialogo, cioè io ho sempre cercato il dialogo con i vari stalker e ho detto non è corrisposto l'amore, non è corrisposto assolutamente niente, non ho mai avuto storie con loro, li ho conosciuti semplicemente per vari incontri pubblici, se non la smettete denuncio. Niente, tutto rimbalza, sono come dei muri di gomma. Pensate che dopo il provvedimento questa persona si fa ancora sentire, cioè, e quindi non hanno limite. Quello che mi ha particolarmente colpito, devo dirti, che le due persone, quelle più problematiche sulle tre, utilizzano sempre il tema della religione, cioè loro utilizzano che Dio gli ha detto questo, che Dio gli ha detto che dobbiamo avere una vita insieme. E quindi, vabbè, diciamo, questo è un elemento anche, per così dire, di valutazione psichica da parte di chi lo deve compiere. Allora, io intanto ti ringrazio per la testimonianza. Grazie, che Oscar. Sei tornata a rendere. Ai nostri ascoltatori dico che adesso, dopo un minuto di traffico, abbiamo con noi il presidente della sezione autonoma di misure di prevenzione del Tribunale di Milano, perché sentiamo dai magistrati come stanno le cose nella loro valutazione, insomma. Tra un minuto. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta. Lo spunto tragico ieri, l'assassinio di fronte all'ospedale di Teramo della dottoressa oncologa Esther Pasqualoni da parte di un molestatore. Poi la testimonianza, abbiamo ascoltato prima, di un deputato europeo che dice: io ho dovuto fare, e dopo aver aspettato più di un anno e mezzo prima di decidermi a sporgere denunce, 8-9 denunce, 3 molestatori prima di un provvedimento interdittivo. Abbiamo sentito stamattina il capo della polizia dire le misure interdittive che la magistratura può disporre a seguito delle denunce, denunciate tutti, ma insomma, certo, ci sono e sono un passo avanti. Naturalmente non sono in grado poi di impedire, come possiamo intervenire su tutti, però la domanda che a questo punto facciamo a Fabio Roia, ringraziandolo per essersi reso disponibile, presidente della sezione autonoma misure di prevenzione del Tribunale di Milano, è: da parte sua e vostra come magistrati, la valutazione di questi strumenti com'è? E poi, siete davvero in condizioni, di fronte alle denunce che ricevete, di fare un esame di ciascuno dei casi per valutare il profilo psicologico, eccetera eccetera, del potenziale, per così dire, soggetto che può far evolvere dalla protesta, dalla molestia, dalla persecuzione, fino al tentativo di attentare alla vita davvero della vittima? Buon pomeriggio, grazie dell'invito. Allora, noi dobbiamo fare questo, nel senso che non possiamo, come dire, trovare delle scuse e dire che sono eventi imprevedibili e accidentali. I femminicidi non sono mai eventi che devono accadere, i femminicidi sono eventi che possono e devono essere impediti. La prima cosa che dobbiamo fare, noi oggi abbiamo una serie di leggi che possiamo definire molto buone per applicare e reprimere, per applicare le misure protettive e reprimere questo fenomeno. Quindi la prima cosa da fare è senz'altro prendere in considerazione immediatamente, unitamente alle forze di polizia, tutte le denunce che vengono fatte dalle parti lese. Certo. È stato detto prima, giustamente, che quando una donna arriva a denunciare, ovviamente lo fa non in maniera strumentale, ma perché evidenzia una sofferenza. Quindi ci può essere un primo problema di sottovalutazione, come dire, negligente di questi casi, che non deve avvenire, perché in questo caso c'è la responsabilità del singolo operatore. E quindi è un caso che poi va censurato. Si è fatto riferimento a quella sentenza del Tribunale di Messina che ha condannato lo Stato italiano, che immagino si arriverà poi sui pubblici ministeri, lì ci sono dei problemi giuridici che però non vorrei affrontare, infatti, eccetera. No, esatto. Comunque il segnale è molto forte, si dice, ce l'ha detto la Corte Europea, adesso lo dice un tribunale italiano, in presenza di questi di reati di genere, comunque di stalking, sono due fenomeni diversi, i magistrati si devono attivare, gli strumenti ci sono, bisogna intervenire. Il problema vero è questo, che noi magistrati non siamo in condizione di fare un'adeguata valutazione del rischio. Io temevo, ma perché voglio dire, le risorse a disposizione sono quello che sono, tanto per tornare a un noto argomento. Sì, e quello è un problema delle risorse, però è vero, ma non può essere una giustificazione, mai, quando c'è di fronte il pericolo di una vita, questo mai. Quindi è vero che le risorse sono poche, ma io parlavo di risorse, come dire, scientifiche, nel senso che noi possiamo anche disporre, allora per lo stalking per esempio è previsto l'arresto in flagranza di reato, quindi basterebbe una buona serie di norme, di segnalazioni da parte delle forze di polizia, l'intervento al momento in cui viene posta in essere un'attività di molestia o di minaccia, si può procedere all'arresto dello stalker. Ma il problema è la sottovalutazione del caso, nel senso che molte volte gli stalker, al contrario, non so, di chi agisce violenza domestica, è una persona che ha dei disturbi. Disturbi rilevanti sul piano penale, non malati. Questo è un altro errore che noi possiamo fare, cioè di dire che chi fa questo genere di reati è normalmente una persona malata. Non è vero, però nello stalker le statistiche ci dimostrano che si alza il numero di queste persone disturbate. E allora questa è un aggravamento del rischio. Ma quello che volevo dire io è semplicemente questo. Quando noi abbiamo delle denunce per stalking, non possiamo trattare tutti questi casi per esempio chiedendo per tutti la custodia cautelare in carcere, perché ovviamente se tutto è grave, nulla poi è grave. Giusto. C'è un paradosso di questo tipo. Come ha ricordato stamane, più o meno con le stesse parole, esattamente il capo della polizia. E ha ragione il capo della polizia da questo punto di vista. Quello che noi dobbiamo capire, attraverso però una specializzazione della magistratura inquirente giudicante, una specializzazione delle forze di polizia, e si sta lavorando in questo settore, che in questo genere di reati bisogna fare un'adeguata valutazione del rischio, cioè bisogna vedere quali sono gli elementi sintomatici della personalità dello stalker e capire se in quali casi adottare le misure estreme, come può essere la custodia cautelare in carcere. Per fare questo, e qui forse andrebbe leggermente modificata una norma che abbiamo nel nostro codice di procedura penale, forse non basta il solo sapere del magistrato, occorrerebbe l'aiuto di saperi complementari. Penso al criminologo, penso allo psicologo, penso in taluni casi allo psichiatra, cioè a persone che ci aiutino a leggere la pericolosità reale di questi soggetti. Ma ai quali oggi con l'ordinamento attuale non avete accesso per la valutazione? No. Ah. Non lo possiamo fare perché c'è una norma del codice che ci consente di fare consulenze di perizie, diciamo, sulla personalità dei soggetti da noi indagati o imputati solo quando si è in presenza di una malattia, nel senso clinico del termine. Sono vietate le perizie che mirino a studiare la personalità criminologica, antropologica, psicologica del soggetto. Però in questo genere di reati questo è assolutamente fondamentale, perché altrimenti noi adottiamo dei criteri ordinari, quelli che adottiamo per gli spacciatori, per i rapinatori, che da un certo punto di vista è facile capire quando potranno commettere un tipo di reato per il quale si precede. Per esempio, chi ha un problema di tossicodipendenza è normale, abbastanza normale, è prevedibile che finché non risolva quel problema di tossicodipendenza sarà portato a reiterare reati contro il patrimonio, certo, per acquisire delle somme che poi gli servono per comprare la droga. Ma in questo genere di reati, siccome gli autori hanno dei profili assolutamente particolari e imprevedibile, queste categorie che noi applichiamo sono totalmente insufficienti. Da qui, o mettiamo tutti in carcere, e ciò non è possibile ovviamente in maniera preventiva, perché il nostro sistema, la custodia cautelare in carcere, è uno strumento eccezionale, oppure andiamo realmente a capire e comprendere con la nostra volontà, con la nostra perizia, con la nostra capacità, ma con l'aiuto anche di scienze complementari, in quali casi una donna o una persona rischi realmente la vita oppure no. Ecco, io però la ringrazio perché lei è stato non solo chiaro, non solo quindi comprensibile a chiunque, anche chi non è esperto di ordinamento e di cose giuridiche, ma ha fatto una proposta concreta, cioè ha identificato, non ha fatto una proposta, il problema rispetto al quale il legislatore potrebbe dare un apporto determinante. Consentiamo ai magistrati l'accesso a quelle professionalità per valutare il profilo di chi viene denunciato e misurare quindi meglio il tempo e l'efficacia, la graduazione diversa delle misure che ha a disposizione il magistrato. Ecco, speriamo che qualcuno ascolti. Grazie al dottor Fabio Roia, come grazie all'onorevole Lara Commi. Continuate su Radio 4, appuntamento con me Alessandro Mina domani, come sapete, alle 8:15. Attenti a noi due.